Welcome, Federico. All servers are ready. The security system is loaded. Benvenuti ad una nuova puntata di Medium. Sono qui con il mio calcolatore e muovo con il topo il cursore sullo schermo. Uso la mia tastiera e adesso sono pronto per fare un incontro con gli altri giocatori di Corridore della Rete per poter giocare a questo gioco fantastico, molto italiano, che si chiama Netrunner in italiano. Ok ragazzi, scherzo, sto semplicemente cercando di sdrammatizzare questa uscita, che è stata un po' pesante, della versione italiana di Netrunner, che è poi l'argomento di questo podcast di oggi. Non sono particolarmente contento, anche se effettivamente mancava veramente una versione italiana di questo gioco. Ora, la maggior parte di noi che sta già giocando a Netrunner vuol dire che conosce bene l'inglese, non fa fatica a leggere l'inglese, a capire quello che c'è scritto nelle carte, e eventualmente quindi non sta vivendo questa esperienza di esclusione da Netrunner, come magari invece lo stanno vivendo molte altre persone in Italia, le quali sono magari appassionate di giochi di carte viventi, quindi living, sono appassionate di sto cercando di tradurre cyberpunk, ma veramente non esiste una parola che possa tradurre cyberpunk. Ad ogni modo, basta con questa traduzione a tutti i costi. Quello che volevo dire è semplicemente che tutti coloro che non hanno accesso all'inglese, quindi sono esclusi da Netrunner in automatico perché non esiste una versione italiana, da oggi potranno far parte della nostra comunità. Avrei detto community, però in realtà, essendo la puntata sull'italiano, dico comunità. E quindi dai, l'avvento di Netrunner in italiano è sicuramente una buona, buonissima cosa. Probabilmente la maggior parte degli italiani che non si sente molto sicura con l'inglese, vuoi perché sono molto piccoli, vuoi perché non hanno avuto modo di impararlo, potranno entrare all'interno del gioco, familiarizzare in italiano con il gioco, e poi, siccome con molta probabilità per avere gli ultimi rilasci, avrei detto le ultime release, per avere gli ultimi rilasci del gioco, quindi gli ultimi pacchetti di dati, probabilmente dovranno attingere a Amazon.it e prendere la versione inglese, perché inesorabilmente la versione italiana sarà per almeno un annetto un po' in ritardo rispetto all'uscita della versione inglese. Quindi chi si appassionerà, anche essendo partito all'italiano, probabilmente poi lavorerà sulle espansioni, sui pacchetti di dati in inglese. Adesso andiamo un po' a fare un po' un'analisi della situazione. Se ne è parlato veramente tanto attraverso i Facebook, attraverso il forum della Tana dei Goblin. C'è stato veramente tanto dialogo tra, come dire, l'ambasciatore della Tana dei Goblin, cioè di Giochi Uniti nella Tana dei Goblin, e tutti quelli che stavano valutando di acquistare Netrunner, oppure quelli che invece sono all'interno della nostra comunità di Netrunner e quindi volevano dire la loro e cercare di capire quello che è passato per la testa dei traduttori nel momento in cui hanno tradotto per esempio Ice in ghiaccio. Ora, questa credo che sia la cosa che ci fa la traduzione che ci fa più soffrire di tutti, cioè la parola ice è vero che un americano legge la parola ICE e quindi vive questa esperienza di sinonimia fra la barriera che impedisce al runner di entrare e il ghiaccio. Però io, per esempio, nella mia ignoranza, non sono un traduttore e quindi non voglio arrogarmi la professionalità che non ho, però io solamente come giocatore avrei preferito la parola gelo, che non è ghiaccio, che ghiaccio non si proprio sentì, e in più l'avrei messa tutta in maiuscolo, puntata, oppure semplicemente tutta in maiuscolo, a testimoniare che era semplicemente un acronimo, quindi che era l'abbreviazione di una frase più lunga, e come è stato fatto per esempio con Harry Potter con il metodo gufo. Non so se qualcuno si ricorda che su Harry Potter, quando a un certo punto arriva una preside super stronza, c'è il metodo AU, che sarebbe gufo, e in italiano è stato giustamente tradotto con il metodo gufo, ma poi hanno detto gufo sta per G per questo qui, U per questo qua, F per quest'altro qua e O per questo qua. Non mi chiedete di ricordarmi per cosa fosse gufo, perché non lo posso sapere. Io avrei fatto così, cioè per quanto riguarda ICE avrei fatto una traduzione in gelo, dando un acronimo di, che ne so, la E poteva stare per elettronico, la G poteva stare per, non lo so, qualcosa ci si inventava. E altre cose che sono state un po', come dire, criticate è stata la traduzione di CHUM, olio su ghiaccio. Capisco perché è stata tradotta in questa maniera. CHUM fondamentalmente di suo non fa nulla, però rende più difficile superare l'ice successivo, quindi come se ci fosse dell'olio che ti fa scivolare sul ghiaccio. Penso che sia stata questa la motivazione per cui hanno tradotto CHUM con olio su ghiaccio. Guardiamo che cosa vuol dire CHUM in inglese. Lo faccio in tempo reale cercandolo su internet. CHUM, dizionario inglese italiano, word reference, informal, colloquiale, amico, ma anche esca. Ma cavolo, non si poteva chiamare esca sto benedetto ice? Esca è perfetto, cioè io te lo rezzo, anzi te lo materializzo. Questo termine materializzare e non mi dispiace onestamente, perché effettivamente lo rendo materiale, cioè lo rendo attivo, quindi materializzare ci può stare. Te lo rezzo, tu lo incontri, è un esca, come per dire guarda, passa questo ice che quello dopo sarà sicuramente perfetto per te, e ti becchi 3 danni e non può, e a meno che tu non lo rompa con un forza più 2. Insomma, direi che è un assolutamente, potevano essere fatte scelte migliori. Al contrario invece di molti che hanno protestato per Beanstalk, Beanstalk Royalty secondo me è stato tradotto bene, cioè la pianta del fagiolo allude proprio a questa sorta di grande cavo che arriva fino alla zona, diciamo, alla stratosfera, diciamo, del mondo, e quindi questa sorta di ascensore che può essere rappresentato come la pianta del fagiolo magico che porta il protagonista nel mondo dei giganti. Quindi secondo me è stato tradotto fedelmente e non mi stupisce magari che in un futuro cyberpunk ci possa essere anche un'allusione alle realtà magiche. D'altronde, quando è uscita la console Grimoire, neanche nessuno si è mai lamentato che fosse troppo fantasy la parola Grimoire, che vuol dire grimorio, e quando è tradotta in grimorio non mi risulta né particolarmente fastidiosa né altro. Altre cose che posso vedere non ci sono. Andiamo quindi alla risposta che è stata data dai traduttori all'interno della Tana dei Goblin per quanto riguarda appunto questa sorta di problemi che sono stati sollevati sulla traduzione. Allora, vi voglio leggere direttamente quello che può essere la risposta definitiva che i traduttori hanno dato, i traduttori di giochi Unity hanno dato per quanto riguarda il motivo per cui hanno scelto di fare determinate scelte stilistiche, quindi tradurre una cosa in un modo o in un altro. Nel farlo voglio ringraziare calorosamente DB Cooper, che ha gestito tutte le risposte all'interno della Tana dei Goblin, di tutte le persone che in maniera più o meno infuocata hanno voluto esprimere la loro posizione, perché effettivamente è stato un gran mediatore e devo dire che Giochi Uniti ha scelto veramente la persona giusta per rispondere all'interno della Tana. Allora, DB Cooper ci scrive: un errore, cosa che qui non sussiste, grave, non si scusa. Infatti, agli errori gravi abbiamo sempre posto una soluzione vera e tangibile. Ristampare un set è infattibile, specialmente per scelte di traduzione che non hanno nulla a che vedere con la giocabilità. Allora, vado per ordine. Il processo alla traduzione ha spostato il nucleo del discorso. Non ci sono errori strutturali che inficiano la fruibilità del titolo. Ergo, Giochi Uniti non può economicamente e materialmente intervenire perché non c'è alcun danno arrecato all'utenza in termini di uso. Ho parlato col team, la questione è complessa. Ho speso gran parte della notte e del mattino a dialogare e documentarmi, cercando anche di capire tutti i margini della questione. I fagioli suona male, ma è l'intento dell'autore, non c'è molto da discutere. Può non piacere, ma è così. È il riferimento alla fiaba e non ha nulla di cyberpunk per definizione. È come suona all'orecchio, ma Beanstalk è un riferimento alla pianta di fagioli per il racconto. Ghiaccio, il team non è disprovveduti. Si tratta di due persone molto competenti nel settore. Le scelte effettuate sono state compiute con tanto, non tanto per retaggio in relazione alle prime edizioni, quanto per assonanza e fluidità. Non hanno voluto compromettere la sigla, che ovviamente conoscevano perché avevano file ufficiali del glossario, ma rinominare il sistema partendo da quanto segue. In primis, le sigle in italiano si pronunciano in modo più duro. In un gioco non va tenuto conto soltanto della lettura, ma anche della pronuncia. In inglese è evidente il gioco di parole ice, cioè ghiaccio. La puntatura non si utilizza praticamente mai negli acronimi americani, nelle frasi discorsive, per protocollo linguistico, e l'idea di firewall, che blocca gli accessi, era resa con il doppio senso ice. Tant'è che una nota revisione appariva per esempio come black ice, il sistema più insidioso fosse inteso in doppio senso come ghiaccio nero, proprio nel senso del ghiaccio che si condensa sull'asfalto e rende impossibile percepirlo. Ice ghiaccio è perciò un'assonanza palese, visto che nel testo ice appare spesso in minuscolo e come parola proprio per il doppio senso. È così che si usano gli acronimi in americano, quando si vuole attribuire il doppio senso. Il traduttore dei libri disse di aver proposto contromisure elettroniche ad accesso e intrusione, o qualcosa di simile. CI non aveva alcuna fluidità, né fornisce al lettore o giocatore il senso del mezzo. Ghiaccio, spiegato da manuale come sistema di firewall che blocca l'accesso, garantisce anche a chi non ne sa nulla il senso pratico del sistema, bloccare l'accesso. O qualsiasi altra parola tradotta in modo più o meno gradito non tange in alcun modo il titolo. Se Reds è materializzare, può piacere o non piacere, ma non c'è ragione al mondo per ristampare la carta. In conclusione, sono ben felice di assistere i clienti e di fornire risposte mano a mano che arrivano, ma non possiamo trasformare il filo diretto in un'occasione per strumentalizzare una questione per fare richieste decisamente sopra le righe, ricattando il sottoscritto. Immagino si debba anche apprezzare chi spende diverse ore a rispondere sempre alle stesse questioni, anche evolvendo il discorso, chiarendo tutti i punti, popolari o meno, cercando di non lasciare punti morti. Un po' come quando si intenta una causa, non si ha sempre ragione o sempre torto, a volte l'accusa è eccessiva, a volte la difesa traballa, a volte forse è bene trovare la ratio dietro certe scelte ed evitare flussi di illazione e provocazione di sorta. La battuta ci sta bene e ne ho quotate un paio anche piuttosto pungenti, ma vi chiedo cortesemente di riflettere su quanto scritto finora e di comprendere che una scelta editoriale può non piacere, ma va presa come tale perché non abbiamo incompetenti al lavoro. A disposizione, Marco. Grazie Marco per la pazienza con la quale hai risposto a tutti quanti. Ora, tirando le fila, direi che sono abbastanza contento del fatto che è uscito in italiano. Se non si è particolarmente fluidi con la lingua inglese, sarei pronto anche a consigliarlo. Vediamo come vanno le espansioni e intanto auguro a tutti quelli che hanno comprato la versione italiana di vederci su netrunner.it, perché è il punto di riferimento per la community italiana di giocatori di Netrunner, e sicuramente fra 2 o 3 mesi, cioè quando avremo detto la parola ghiaccio 100.000 volte e non ci ricorderà più la traduzione, ma semplicemente ci sembrerà un termine tecnico all'interno di Netrunner, vedrete che non vivremo più questo senso di straneazione dall'ambientazione cyberpunk. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, un ciao da Federico e alla prossima. I've seen things you people wouldn't believe. The system will now go into maintenance mode. Thank you for using our services.